Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a marzo del 1856. Si chiude la guerra di Crimea, a Parigi il riconoscimento della questione italiana. Beffa agli austriaci, fuggito dal carcere di Mantova, Felice Orsini. Distrutto di nuovo da un incendio, il teatro Covent Garden di Londra. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura andiamo a Parigi, dove c'è stato un evento importante dal punto di vista diplomatico. C'è stata la conferenza che è seguita alla guerra di Crimea e dal punto di vista della questione italiana c'è stato un riconoscimento. La questione può apparire sottile come tutti i grandi successi diplomatici. Camillo Benso Conte di Cavour alla conferenza di Parigi ne ha però indubbiamente ottenuto uno, anche se quali possano esserne le conseguenze non è ancora chiaro. Di fatto, per la prima volta in un consesso internazionale e nonostante l'aperta ostilità di una grande potenza come l'Austria, si è posto il tema della questione italiana. I ministri raccolti nella capitale francese erano chiamati a fare tutt'altro, ossia stabilire le condizioni della pace dopo la guerra di Crimea. Anche qua Cavour ha provato a dire la sua, ipotizzando che i ducati di Modena e Parma fossero annessi al Piemonte per evitare che, sconfitta la Russia, l'Austria si trovasse padrona di un campo enorme che andava dalle terre pontificie, dove pure Vienna mantiene delle forze militari, fino al Danubio. Negli ambienti diplomatici torinesi, da quel che abbiamo appreso, si è rimasti piacevolmente sorpresi quando è stato lo stesso Napoleone III a tirare fuori l'ipotesi suggerita dal Conte, anche se applicata al solo Ducato di Modena, filo austriaco per definizione, visto che il Granduca è un Asburgo. Ipotesi che i ministri non hanno creduto opportuno accettare. Quello che hanno accettato, in particolare i britannici e i francesi, è di interessarsi delle questioni degli stati italiani. A firma del trattato avvenuta, il ministro francese Alexandre Walewski, durante i lavori conclusivi, ha espressamente citato come problemi internazionali il malgoverno del Regno delle Due Sicilie e la presenza di truppe austriache negli stati del Papa. Altrettanto ha fatto il collega inglese Lord Clarendon. In conferenza stampa il ministro Cavour, il cui discorso è stato invece improntato alla moderazione, si è detto molto soddisfatto, soprattutto perché le dichiarazioni di Clarendon e Walewski sono state inserite nei verbali del congresso. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Il liberale e patriota Felice Orsini è riuscito a fuggire dal castello di San Giorgio a Mantova, una fuga che sta appassionando e si sta tramutando in oggetto di scherno verso gli austriaci. Infatti si è appreso da fonti di polizia che la carrozza sulla quale viaggiava Orsini durante la fuga, insieme ad Emma Sigmund, ha rotto il timone davanti alla fortezza di Pizzighettone e i gendarmi dell'impero hanno loro stessi sostituito il pezzo rotto con uno preso dai magazzini della fortezza. L'uomo sarebbe diretto verso Parigi. Per la seconda volta in meno di 40 anni, la prima fu nel 1808, il teatro che sorge nella zona di Covent Garden a Londra è andato distrutto dalle fiamme. Le cause sono ancora da accertare, ma ci sono dubbi su come fu fatta allora la ricostruzione. Bastata mezz'ora, infatti, perché il teatro dell'opera andasse bruciato completamente. Ed è tutto anche per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate a visitare il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento là oppure a gazzettino@radio24.it. Scaricate come sempre sul sito www.radio24.it il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.